Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Se dico la parola allieva, tutti capiscono di cosa sto parlando. Sto parlando naturalmente dei romanzi di Alessia Gazzola, che hanno per protagonista Alice Allevi, allieva, o meglio ex allieva ormai, di medicina legale. È un personaggio molto, molto amato dai lettori italiani e non solo. Un personaggio che è stato definito a metà fra Bridget Jones e Kay Scarpetta, perché lei appunto fa il medico legale, ma tu racconti anche le sue vicende sentimentali. Sappiamo che lei è un po' pasticciona, è un pochino incasinata dal punto di vista sentimentale, proprio un termine letterario meraviglioso secondo me per definirla. E ora è in libreria il suo ultimo romanzo, che si intitola Arabesque, pubblicato come gli altri da Longanesi. Giusto per ricordarvi alcuni titoli: Un segreto non è per sempre, Sindrome da cuore in sospeso, Le ossa della principessa, Una lunga estate crudele, Un po' di follia in primavera. Alessia, c'è una nuova puntata che riguarda appunto la tua protagonista seriale. Ho deciso di fare un gioco con te. Partiamo da alcuni elementi fondamentali. Primo, situazione professionale. Tu scrivi: va tutto bene, ho la situazione sotto controllo, più o meno. Ho aspettato questo giorno per 5 anni e finalmente da un mese sono una specialista in medicina legale a tutti gli effetti. Nei primi giorni tutti mi dicevano: che bello, sei in vacanza. Ma col cavolo che bello, perché la vacanza è tale se alla fine hai un posto in cui tornare. E io questo posto non ce l'ho più. Come si sente Alice ora che ha finito, diciamo, i suoi studi? Si sente totalmente disorientata, no? Lei definisce questo momento della sua vita una libera disoccupazione più che una libera professione, perché una volta che si è sganciata dall'istituto, conseguito il titolo proprio di specialista in medicina legale, a quel punto le si apre questo scenario di ricerca forsennata del lavoro, andandolo a pietire a tutti i magistrati del caso, perché alla fine il lavoro del medico legale è poi un lavoro di questo tipo: entrare, diciamo, nel novero degli esperti per quanto riguarda quella determinata disciplina e venire quindi poi convocati dai giudici e sostenersi in questa maniera. Poi tu ne parli, diciamo, a ragion veduta, perché anche tu sei medico legale. Sì, io, diciamo, questo passaggio della vita di Alice io l'ho attraversato a mia volta e me lo ricordo come un momento, in realtà, da un lato di eccitazione, dall'altro lato anche un po' di sconforto, diciamocela tutta. Perché comunque l'istituto, chiaramente, e questo parlo naturalmente per Alice, l'istituto per lei era senz'altro quello che avevamo definito il santuario delle umiliazioni, perché lei era l'ultima ruota del carro, ne combinava sempre una, cioè aveva la sua professoressa che veramente la vessava, cioè Conforti che crea altri generi di problemi, insomma. Il famoso CC Claudio Conforti, l'uomo di cui lei è innamorata, anche se in realtà ha un altro fidanzato che si chiama Arthur, ma lui sta sempre in giro per il mondo a fare il reporter. Ma ci arriviamo alla situazione sentimentale. Esatto, e quindi niente, insomma, l'istituto alla fine però era il suo luogo di riferimento, era un luogo in cui andare ogni giorno. E invece adesso si trova a fare la libera professionista, sostanzialmente. Esatto, ecco, appunto, che lei stessa definisce la libera disoccupazione. Legata alla situazione professionale c'è la situazione, diciamo, anche economica. E tu scrivi: in una città come Roma i soldi o sono pochi o sembrano non bastare mai. Così mi sono ritrovata a convivere con mio fratello Marco, tornato single, quando una mia amica dei tempi dell'università, Alessandro, lo ha mollato, eccetera, eccetera. Accidenti, come se la cava a convivere col fratello? Se la cava male, perché comunque anche il fratello non sta messo tanto bene. Lei pensava di poter dividere l'affitto, in realtà suo fratello partecipa poco. In compenso però le svuota la lavastoviglie, è servizievole, è tanto gentile. Però sul piano economico non è poi realmente di grandissimo aiuto. Quindi Alice si barcamena come può. L'anticipo lei già lo spende in abiti, perché poi di fatto è consumista. Anche se poi per arrivare a fine mese si propone il digiuno, perché Alice è una di noi, mi ricorda me 15-20 anni fa. Sì, cioè alla fine penso che siano sensazioni che abbiamo provato un po' tutte, no? Io personalmente in certi momenti della vita mi ci sono trovata a dover scegliere, che ne so, tra due cose. Alice sceglie sempre l'ipotesi più consumista, su questo veramente non c'è dubbio alcuno, però per fortuna c'è anche la nonna che l'aiuta tanto, la nonna che dice vabbè, a fine mese mi arriva la pensione dall'INPS e ti aiuto io. E veniamo alla situazione sentimentale, perché per Alice e Levi è fondamentale. Prima abbiamo accennato, c'è Arthur, il suo fidanzato, ma è sempre in giro per il mondo, rapporto altalenante, poi questo rapporto di attrazione e nello stesso tempo a volte anche un po' fastidio, odio nei confronti del suo collega, anzi il suo capo, Claudio Conforti. Fra le varie frasi che hai scritto in questo romanzo, io ne ho identificata una che secondo me è esemplificativa del loro rapporto. Claudio, questo tuo continuo precisare che non cambierai mai è pesante quanto il mio chiedere il contrario. È una condizione, in un senso o in un altro. Non c'è poi differenza. Lo capisci questo? Insomma, continuano a battagliare. Sì, no, e loro è sempre un rapporto che si gioca veramente sul campo di battaglia, e lui a un certo momento glielo dice: avresti dovuto fare l'avvocato perché trovi sempre l'appiglio. E lei è un po' così, a volte è anche un po' petulante. A me piace che anche questo tratto che le ho dato. Lei tenacemente cerca di farlo capitolare, cerca di cambiarlo. In realtà però col tempo, soprattutto in questo libro, lei capisce che questo non soltanto non ha senso, il cercare di far cambiare le persone, ma si scopre addirittura molto più simile a lui di quanto non avesse messo in conto in precedenza. E quindi sì, loro sono sempre che battibeccano, sono il gatto e la volpe in maniera, il gatto e il topo, scusami, in maniera alternata, perché a volte non si capisce chi è il gatto e a volte non si capisce chi è il topo. Continueranno a battagliare anche in questo romanzo? Beh sì, però ho scelto in questa storia di aggiungere anche un tipo di coinvolgimento diverso per quanto li riguarda, che non è più soltanto quella tensione. C'è un'evoluzione nel loro rapporto. Insomma, siamo al settimo libro, lo auspicavamo. E veniamo alla vittima, come in tutti i gialli, anche se i tuoi sono un mix fra giallo, romance, romanzo ironico, eccetera, che si rispettino, ci deve essere una vittima. Chi è la vittima? Maddalena Vichi, 47 anni appena compiuti, ex danzatrice, ex moglie di un illustre coreografo di fama internazionale, appassionata di giardinaggio, cui si dedicava tutte le mattine dopo un'ora di esercizi alla sbarra, prima di andare al lavoro alla scuola di danza da lei fondata. Questa Maddalena Vichi viene trovata a cadavere nel giardino della sua villa, tra l'altro con un vestito meraviglioso. È stata ballerina alla Scala, apparentemente morte naturale, ma Alice capisce che c'è qualcosa che non va. Poi va detto che il vantaggio, in qualche modo, passatemi il termine, di essere un medico legale è andare un po' a immaginare dei meccanismi di morte inconsueti da proporre al lettore, no? Che il lettore medio naturalmente non può conoscere, perché sono delle cose che conosce soltanto chi si è addentrato un po' nella fisiopatologia forense. Come te. Sì, come me. Ed è il motivo per cui magari nei miei romanzi meno colpi di pistola, meno coltelli e invece più, come in questo caso, lacerazione spontanea della carotide, ecco. Che succede tutti i giorni. Ma sì, chiaramente, ma tutti lo sanno. Ecco, in questo romanzo hai acceso anche un faro sul mondo della danza classica, che, come abbiamo già visto anche da alcuni film, ricordo per esempio Il Cigno Nero, è un mondo pazzesco di concorrenza, anche di crudeltà, di cattiveria. Tu come ti sei documentata per riportarlo nel tuo romanzo? Sì, allora, va detto che chiaro, questa è un'opera di fantasia, magari poi a volte il mondo della danza classica può avere tutti quanti i tratti positivi di qualunque altro mondo artistico, sportivo, e portare anche i valori positivi, no? Di questi mondi. Però è chiaro che, essendo io una giallista, io mi dovevo occupare di un altro... Del lato più scuro, più dark. Del lato più dark, che come dici tu, già io stessa avevo ereditato in qualche modo nel mio immaginario dal Cigno Nero di Aronofsky, che io dico che, indipendentemente dal fatto che quel film sia piaciuto o meno, comunque è un film che colpisce molto. Io lì per lì non lo avevo amato, però evidentemente mi aveva lasciato dentro qualcosa che poi ho in qualche modo traslato in questo romanzo, perché la ricerca della perfezione, la ricerca ossessiva della perfezione è un elemento che io ho voluto inserire, anche se poi non è quello proprio fondante, perché mi interessava in realtà più di tutto, da un punto di vista della dinamica del giallo, esplorare un altro tipo di dinamica, che è quella tra maestro e allieva, in questo caso al femminile, maestra e allieva, un rapporto che viene contaminato da sentimenti di invidia da parte della maestra nei confronti di una giovane allieva molto brava e molto capace, ed è invidia di quella giovinezza che è andata persa, delle occasioni che non si hanno più. Ecco, erano questi, devo dire, più i sentimenti che mi interessava esplorare, e probabilmente avrei potuto metterli anche in altri tipi di ambientazione, se tu ci pensi non è un qualcosa che vedo come esclusivo del mondo del balletto classico, però appunto il balletto classico cos'ha? C'ha quella patina di superficie bellissima che mi piaceva andare a descrivere, perché a me piace poi alla fine sempre indugiare un po' in questi dettagli, è un po' la mia caratteristica di mettere sempre degli ambienti molto belli. Dove succedono cose terribili. Ho scoperto che Dazieri questo genere di gialli così li definisce i gialli della contessa. Sandrone Dazieri, altro grande thrillerista italiano. Sì, no, insomma, l'ho scoperto da poco questa cosa, ma io l'ho trovato veramente una cosa detta, ritagliata proprio per il mio genere. A me piace descriverli un po' così. E quindi il balletto si prestava, cioè un giallo della contessa, è ovvio che il balletto che ci sta benissimo. E siamo alla situazione televisiva. La fiction TV trasmessa da Rai 1 nel 2016, L'allieva, ha avuto un successo incredibile, una media del 20% di share, quasi circa 5 milioni di spettatori a puntata. La fiction tornerà nel 2018. Abbiamo lasciato gli spettatori, tu sei co-sceneggiatrice, per questo ti do anche un pezzo di responsabilità, con Alice che deve scegliere appunto fra Arthur e fra Cicci, Claudio Conforti. Quindi c'è anche una differenza fra quello che accade ad Alice nella fiction e quello invece che accade ad Alice nei libri? Sì, c'è. Se nella prima serie in realtà le differenze erano anche poche, in questa seconda serie si vede come il genere televisivo abbia preso in qualche modo una sua strada, e probabilmente è anche giusto così. Per me è stimolante vedere come dei personaggi che io ho creato fanno delle cose che io stessa non ho previsto. In qualche modo mi eccita anche l'idea di andare a vedere un po' la storia raccontata in maniera diversa, e quindi non è un qualcosa che io vedo come negativo, anche perché so che poi in realtà la completa autonomia creativa io la conservo nei miei libri, lì succede tutto quello che io voglio e sono contenta così. Però assolutamente in questa seconda serie bisogna aspettarsi una serie diversa, con contenuti anche diversi, anche perché appunto il finale della prima serie aveva già imposto una scelta in maniera anche molto più forte di come io non avessi fatto nei romanzi. Insomma, se siete dei fan di Alice Levi, vi tocca sia vedere la fiction TV che leggere i romanzi. Grazie ad Alessia Gazzola, ora in libreria con Arabesque, pubblicato da Longanesi, una nuova puntata in cui è protagonista l'anatomopatologa. Possiamo dirlo adesso, Alice Allevi. Arrivederci, grazie. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Il cacciatore di libri. C'è un libro che è un vero fenomeno fra i bambini, i ragazzini, diciamo dagli 8 ai 12-13 anni. È un fenomeno mondiale, internazionale, ma anche italiano. Sto parlando del Diario di una schiappa. Sono diversi volumi scritti dall'americano Jeff Kinney, in Italia pubblicato da Il Castoro. È uscito anche nel novembre del 2017 l'ultimo volume, che si intitola Diario di una schiappa, sottotitolo Avanti tutta. È l'undicesimo volume di questa serie che veramente appassiona ragazzini di tutto il mondo. Vi faccio così dei dati assolutamente a spanne. In tutto il mondo Il Diario di una schiappa ha venduto circa 200 milioni di copie. In Italia 4 milioni di copie. Insomma, è un successo veramente incredibile che non vede fine, almeno per il momento, e di cui siamo veramente molto molto felici. Ne parliamo con, come dire, la signora Il Castoro, possiamo dire così, cioè colei che pubblica, appunto, con la casa editrice Il Castoro, questa saga del Diario di una schiappa, Renata Gorgani. Innanzitutto, secondo lei che cos'è che affascina così tanto del Diario di una schiappa? Ricordiamo che il protagonista è un ragazzino, Greg, di cui i bambini seguono avventure, disavventure, ha a che fare con la scuola, con i genitori, con la famiglia, insomma con tutto un contesto che, nel quale probabilmente loro si riconoscono. Penso che la ragione più importante è che i ragazzini sentono che Greg è uno di loro. Greg non è un ragazzino speciale, è un ragazzino proprio medio, non ha tanta voglia di studiare, non gli piace tanto leggere, se ne starebbe a casa a guardare videogiochi, non è sportivo, insomma non ha grandi qualità. E in questo devo dire che tutti i ragazzini, sia quelli che gli somigliano un po' e quindi sono pigri, eccetera, ma anche i ragazzini che invece magari eccellono in qualcuna di queste cose, trovano qualcosa che li avvicina tantissimo a Greg. Trovano che lì c'è quello che loro sentono tutti i giorni nei confronti della scuola, degli adulti, di tutte le prediche che si sentono fare e sentono che Greg è accanto a loro nel sopportare questo mondo di adulti che non sempre li capisce. E io sono, devo dire, una fan di Greg e del Diario di una Schiappa, anche perché sono stata trascinata in questo mondo dai miei nipotini, che adesso hanno 11 anni e sono dei veri e propri fan. Soprattutto Luca, ogni volta che gli regalo la Schiappa, impazzisce, lo legge almeno 2 o 3 volte. Ecco, come fascia di età effettivamente è corretta quella che io indicavo, cioè dagli 8 ai 12 anni? Perché io trovo che, insomma, dopo le scuole medie iniziano un po' a lasciarlo la Schiappa, e prima fanno un po' fatica ad entrare in quei meccanismi anche di ironia, perché c'è molta ironia. Sì, è un libro che fa molto ridere. Greg è alle scuole medie e quello è un po' il suo mondo, quindi quelli dovrebbero essere i ragazzini più adatti, però abbiamo visto che in realtà piace tantissimo anche bambini più piccoli, appunto. Infatti, delle scuole elementari, diciamo. A volte anche prima, e credo che loro sentano una comicità diversa, forse non capiscono alcune cose che poi arrivano dopo, però si divertono tantissimo in maniera magari più semplice. Però mi è successo anche di incontrare ragazzi molto più grandi, di 20 anni così, che mi hanno confessato che lo leggono, e qualcuno di loro mi ha detto: guarda, è la storia della mia vita. E quindi anche gli adulti, diciamo, i giovani da adulti si ritrovano in Greg, in tutta la, anche perché probabilmente sono cresciuti con i libri della Schiappa. Sì, io sono convinta che buona parte del successo è dovuta al fatto che i genitori sono felicissimi di comprarlo, così lo leggono anche loro. Dicevamo che questo è l'11° volume, Avanti Tutta, quindi avete iniziato a pubblicarlo in che anno? Abbiamo cominciato nel 2007, quindi ormai sono 10 anni, ci avviamo verso l'11° e questo è l'11° libro che pubblichiamo. Un 11° libro che ha anche una copertina particolare, perché normalmente, insomma, si identificano le varie puntate della Schiappa perché hanno un colore preciso, cioè quello rosso, quello giallo, quello azzurro, quello verde. Questa volta è una copertina bicolore, come mai? Perché è l'11° libro. Allora, Jeff Kinney, l'autore, ha cominciato a pensare, quando ormai stava arrivando al 10° libro, che fare, se continuare a pubblicare questi libri oppure no. Ovviamente c'era il fiato sospeso in tutto il mondo. È stata la rivoluzione dei ragazzini e forse anche degli editori che lo pubblicano. E allora è successa questa cosa, che lui è andato negli ultimi 2 anni a fare un giro, si chiama Global Tour, è andato proprio a trovare tutti i paesi in cui Schiappa viene pubblicato. Sono 63 paesi, quindi sono tantissimi. Il giro del mondo. E quindi fa questi tour dove, non so, sbarca in Thailandia, dopo va in India, dopo va in Cina, dopo va in Giappone, cioè fa proprio questi giri nei paesi più grandi, in quelli più piccoli. E lui ha sentito talmente tanto affetto da parte dei ragazzini in posti del mondo dove lui non era mai stato, tra l'altro non è uno che viaggia tanto, che questo gli ha dato, diciamo, la motivazione per dire: io vado avanti, ci sono troppi ragazzi che stanno aspettando questi libri, e ha pensato che non era proprio possibile finirla con questa serie. Si è convinto. E allora ha detto: ma l'11° libro in qualche modo voglio comunicare a tutti che è un nuovo inizio, e quindi ha scelto di rifare l'11° libro rosso come il primo. Però per differenziarlo dal primo, allora è stato deciso che dall'11° libro la costa del libro, quella che si vede quando si mette in libreria, sarebbe stata bicolore e non di un colore solo. Ecco, questo ha svelato il mistero del bicolore dell'11ª puntata della Schiappa. Ogni volta che esce una nuova puntata della Schiappa in Italia, ma anche in altri paesi del mondo, raggiunge subito le prime posizioni della classifica dei libri più venduti, fra quelli per bambini e ragazzi. Quando il Castoro ha acquisito i diritti per pubblicare la Schiappa, era già un personaggio di successo o avete fatto una scommessa che poi si è rivelata naturalmente molto molto fortunata? Era un libro che andava bene, ma come tanti altri, cioè non era un grande successo. A noi è piaciuto subito, cioè ce ne siamo innamorati immediatamente. Perché? Cos'è che vi ha colpito? Ha detto questo vale la pena pubblicarlo? Perché era l'epoca in cui Harry Potter era nel massimo del suo fulgore e a noi, che peraltro Harry Potter è un bellissimo libro, però piaceva tanto l'idea di raccontare un ragazzino normale, cioè non un ragazzino predestinato con che avesse potere magici. Poteri magici, eccetera. E pensavamo che ci fosse molto materiale per raccontare la vita di tutti i giorni dei ragazzini. Però non era una cosa così ovvia all'epoca, tutti cercavano invece storie di, appunto, di ragazzini, di maghi, eccetera. Fantasy, era il periodo del fantasy, insomma. Ci siamo molto divertiti, abbiamo pensato che Greg era veramente fantastico e quindi l'abbiamo preso subito. È diventato poi un vero gioiello della vostra casa editrice, insomma. Adesso non è che voglio farvi conti in tasca, però immagino che una buona parte del fatturato del Castoro dipenda anche dalla vendita della Schiappa. Beh, certamente, quando, appunto, come lei diceva prima, quando esce balza in testa le classifiche insieme ai grandi nomi come Dan Brown, questi qua. Sì, nella classifica proprio generale, sì, sì, di tutti i titoli, certo. Quindi per noi certamente è un libro molto importante, ma la vera importanza è che è un libro che noi pubblichiamo da 10 anni e che da 10 anni non mostra neanche il minimo segno di crisi. Questo vuol dire che è un libro, io ormai lo definisco tranquillamente, senza timore di essere contestato, un classico. Perché quando i libri, ci sono libri che improvvisamente balzano in testa alle classifiche, ma poi, finito il fenomeno, finiscono. Questi sono fenomeni di moda oppure di un libro particolarmente riuscito. Quando un libro resiste in questo modo per 10 anni, credo che è un libro che resterà per sempre. Cioè, in qualche modo, anche le generazioni che verranno continueranno a leggere questo libro, rimarrà il classico degli anni 2000, insomma. Ma è vero che alla Schiappa si avvicinano anche bambini che tradizionalmente non sono lettori? Beh, questa è la cosa più bella di tutte. A me capita spesso che arrivano lettere di genitori commossi perché dicono: io gli avevo cercato di farlo leggere il mio bambino in tanti modi, ma proprio i libri non gli interessavano. Poi ho trovato la Schiappa, gliel'ho dato in mano e miracolosamente si chiude in camera e non vuole essere disturbato perché sta leggendo un libro. Veramente ci sono genitori che ci ringraziano, o bibliotecari che dicono: non sapevamo cosa dare a ragazzini che non leggono tanto, che hanno magari 9-10 anni, adesso sappiamo cosa dargli e sappiamo che li facciamo felici. Per fortuna esiste la Schiappa, mi viene da dire. Beh sì, insomma, è stata una bella scoperta e il suo autore ha capito negli anni che cosa in realtà stava facendo per la lettura e adesso è diventato un grande promotore della lettura presso i ragazzi, perché sappiamo che dire ai ragazzi devi leggere è il modo più sbagliato per... Però invece dirgli: guarda, prova questa cosa qua, e poi da quel momento in poi sono dalla sua parte e lo seguono in qualsiasi cosa lui fa. Ricordiamo che i libri in Italia sono tradotti in italiano appunto da Rossella Bernascone, perché c'è un grande lavoro di traduzione. Ricordo che in uno dei volumi della Schiappa c'era stato un problema di come rendere una battuta, perché il contesto naturalmente era diverso, quindi bisogna anche cercare di italianizzare, attualizzare e rendere comprensibile per i ragazzi italiani. Sì, a volte ovviamente Greg è un ragazzino e ha un linguaggio da ragazzino, slang anche, quindi certo. Un po' di slang, un po' di battute. Ecco, parla anche un inglese molto semplice e così noi nei nostri libri, Rossella, che è una grande traduttrice, lei traduce anche i classici, insomma, quindi ha cercato di rendere questo linguaggio molto immediato, perché noi non possiamo immaginarci Greg a 11 anni, eppure uno scansafatiche, no, che parla un bel italiano pieno di congiuntivi. Ecco, quindi abbiamo cercato di, lei ha cercato di rendere questo linguaggio da un lato semplice da ragazzino e dall'altro divertente. Grazie a Renata Gorgani, amministratore delegato e direttore editoriale di Il Castoro, che è la casa editrice, una piccola casa editrice specializzata soprattutto in pubblicazioni per bambini e ragazzi, che appunto pubblica questa meraviglia. Lo so, io sono di parte, ma non posso fare altrimenti, che è Il Diario di una Schiappa. L'ultima puntata, ve lo ricordo, si intitola Avanti tutta.